di fuoco per mille miglia, bagliori di fiamme, profumo di morte. E domani, chissà, rosso di sangue, terra squarciata, fantasmi, ombre perdute, memorie dimenticate. E domani, chissà, io grido no, io grido no. Dolore senza ideali, andare senza una meta, morire senza una croce. E domani, chissà, viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Io non so perché mi salvò la vita. Forse in quegli ultimi momenti amava la vita più di quanto l'avesse mai amata. Non solo la sua vita, la vita di chiunque, la mia vita. Tutto ciò che volevano erano le stesse risposte che noi tutti vogliamo. Da dove vengo? Dove vado? Quanto mi resta ancora? Non ho potuto far altro che restar lì e guardarlo morire. Christmas, my limited seconds. Black smoke as soon as the pressure's released. Peeps its size the mystery sees. Consumed by a weakness, cut with perpetual unrest. You see stars, sunsets, blur through the screen. Trap what you want, waste what you need. And when the west wind sweeps through the leaves, emperors of history fall to the knees. Small frogs kiss in the wood for the trees, left in the dust of the fanculo la società. La società si merita solo odio per tutto quello che ha fatto e anche di più. Vaffanculo a tutti, uno per uno, per quanto ci hanno fatto soffrire. Però poi ci sono persone intorno a noi. Ed è un'impresa. Trovarle è raro. Persone che non riesci ad odiare è impossibile. Perché ti sono vicine anche se tu le disprezzi. E quelle davvero speciali sono decise e risolute. Puoi far loro qualunque cosa. Ti accettano. E ti sono vicine comunque. E non ti abbandonano. Anche se avrebbero tutti i motivi per farlo. Non lo fanno. Anche se tu le preghi e le implori di andarsene. Vuole sapere perché? Provano sentimenti per me che io non conosco. Mi vogliono bene. Per il dolore che ho provato, questo è un sollievo. Forse non lo è all'istante, magari dura solo poco tempo, ma è un sollievo. E sì, ci sono battute d'arresto e mandiamo a puttane qualsiasi cosa. Ci feriamo a vicenda e facciamo un gran casino. Però siamo comunque noi. In qualunque mondo si viva. E anche se ci hanno detto che non ce la faremo mai, ancora siamo in piedi. Andiamo in pezzi, ma continuiamo a tenere duro. E non è un difetto. È una particolarità. Quindi no. Non smetterò di avere fiducia nel mondo. E se non ne capisce il motivo, allora mi faccio portavoce di tutti e dico anche a lei: vaffanculo!

L'autolesionista avverte di essere completamente alienato, assolutamente solo, estraneo alla comunità degli uomini. Tra sé e sé pensa: devo essere pazzo. Quello che non riesce a capire è che la società ha, esattamente come lui, un interesse particolare nelle grandi sciagure, nelle catastrofi. Guerre, carestie, alluvioni e terremoti rispondono a bisogni ben precisi. L'essere umano vuole il caos. In realtà gli è necessario. Depressioni, conflitti, sommosse, omicidi, tutto questo terrore. Siamo irresistibilmente attratti da quello stato semiorgiastico creato dalla morte e dalla distruzione. Siamo fatti tutti così e la cosa ci piace. Certo, i media cercano di mettere una maschera triste a queste cose, dipingendole come grandi tragedie umane. Ma sappiamo bene che il compito dei media non è mai stato quello di eliminare i mali del mondo, no. Il loro compito è convincerci ad accettare questi mali e abituarci a convivere con essi. Chi ha in mano il potere ci vuole semplici spettatori passivi. Hai un fiammifero? E non ci hanno dato nessun altro diritto di scelta, a parte l'occasionale, puramente simbolico e partecipatorio atto del voto. Vuoi il burattino di destra o vuoi il burattino di sinistra? Credo sia arrivato il momento di incanalare tutte le mie inadeguatezze e le mie insoddisfazioni negli attuali piani sociopolitici e scientifici e di far sentire la mia voce spenta. Qualcuno è post senza essere mai stato niente.